Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, bentornati a Monte Citorio e dintorni. Questa settimana è con noi il responsabile economico del PD, Stefano Fassina. Allora, subito noi chiediamo, lei ha detto che Monti, il Premier, lascia 7 miliardi da coprire. Se il PD vincesse le elezioni, che cosa farete? Una manovra aggiuntiva? Non faremo manovre aggiuntive, discuteremo con la Commissione europea. Considerata la condizione difficilissima della nostra economia, la recessione è in corso, discuteremo per trovare il modo di affrontare queste spese e queste minori entrate che sono di grande rilevanza, a partire dalla cassa integrazione in deroga per i lavoratori, al credito d'imposta del 55% e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, al finanziamento delle missioni internazionali. La Commissione mi pare che è sempre più comprensiva delle difficoltà dell'economia reale, è sempre più comprensiva dell'impatto negativo delle manovre di finanza pubblica sull'economia reale e quindi poi sul bilancio pubblico stesso, e credo che potremmo dialogare e trovare una soluzione per coprire questi interventi che non implichi ulteriori manovre. Però poi alla fine, lei essendo responsabile economico del Partito Democratico, questo rigore ha portato a una crescita anche della disoccupazione. Che cosa intendete fare una volta al governo? Ma questo rigore ha portato anche una crescita del debito pubblico, non dobbiamo dimenticarlo. L'altro ieri il commissario Rehn, in una lettera che ha mandato ai ministri delle finanze dell'Unione Europea, ha ricordato che nel 2008 il debito nell'area euro, quindi non in Italia, ma nell'area euro è il 60%, oggi è il 90%. Quindi la linea di politica economica che stiamo percorrendo è una linea di politica economica che, oltre a aumentare la disoccupazione e a far chiudere le imprese, aumenta il debito pubblico, e questa è la ragione per cui noi diciamo che va corretta innanzitutto la politica economica a livello europeo. Per rispondere alla sua domanda, che cosa faremo per la disoccupazione, bisogna cambiare la politica economica, bisogna sostenere la domanda, bisogna sostenere gli investimenti, bisogna sostenere la domanda delle famiglie attraverso miglioramento del potere d'acquisto, sia per via fiscale che per via contrattuale. Se non facciamo ripartire la domanda di investimenti, domanda di consumi, l'economia non riprende e quindi l'occupazione non riprende, perché non ci sono scorciatoie regolative sul mercato del lavoro che possono portare a un risultato positivo per l'occupazione. Per risolvere il problema delle troppe tasse, Silvio Berlusconi, il vostro antagonista, promette addirittura la restituzione dell'IMU. Però anche lei ha espresso perplessità su questa tassa. Sì, noi abbiamo detto che l'IMU, che è un'imposta patrimoniale, grava sui patrimoni sbagliati, grava su i patrimoni, cioè le prime abitazioni, le abitazioni di residenza di famiglie che non possono pagarla o la pagano con grandissime difficoltà. Quindi la nostra proposta è di introdurre una detrazione sull'IMU di 400-500 euro, di far pagare l'IMU sui beni strumentali delle imprese come fossero prima casa e non seconda casa come adesso. E per recuperare le risorse e coprire le minori entrate aumentiamo le aliquote per chi ha patrimoni immobiliari che valgono più di 1,5 milioni di euro. Lei è sempre stato un uomo definito vicino alla CGIL. La riforma del lavoro di Elsa Fornero va cambiata? La riforma del lavoro di Elsa Fornero va cambiata certamente per la parte che riguarda i contratti precari, perché la soluzione che è stata individuata è una soluzione che non va bene in assoluto, non va bene ai sindacati, a tutti i sindacati, ma non va bene neanche alle imprese, perché aumentare il costo del lavoro precario in una situazione in cui le imprese sono in difficoltà vuol dire trasformare contratti precari in contratti precarissimi o in contratti in nero. Quindi noi vogliamo procedere sulla strada opposta, e cioè quella di ridurre il costo del lavoro stabile. Va migliorata nella parte che riguarda l'indennità di disoccupazione, perché i contratti precari sono rimasti fuori. Va integrata, perché è una parte completamente rimossa dall'intervento, la parte che riguarda le politiche attive per il lavoro, che doveva essere l'oggetto principale. In realtà poi, una volta che si è toccato il punto sull'articolo 18, tutto l'interesse riformista è venuto meno, perché l'obiettivo era solo quello di favorire ulteriormente il licenziamento dei lavoratori. Quindi lei non crede alle buone intenzioni di Elsa Fornero? Insomma, voi non l'avete candidata, ecco, ma mi sembra che non l'abbia candidata nessuno. Mi sembra che sia stata abbastanza silenziata, a dire la verità. Forse anche troppo, anche immeritatamente. Lei, come uomo vicino alla CGIL, che cosa ha sbagliato il sindacato in generale in Italia? Ma guardi, io ho grande rispetto e amicizia per la CGIL, cerco di essere vicino ai lavoratori e a chi li rappresenta, anche alle imprese e a chi li rappresenta. Quindi, al di là delle caricature, ritengo che ci siano stati errori, certamente, non solo da parte di alcuni, perché credo che la stagione del governo Berlusconi ha visto diversi errori, non solo da una parte. Ritengo che sia stato sbagliato l'approccio del governo Monti a considerare i sindacati e in generale le parti sociali come un problema da evitare. E noi riteniamo che per l'Italia il dialogo sociale sia una strada da percorrere per fare le riforme. Ritengo che errori siano stati fatti anche da parte del governo Monti, oltre che prima dal governo Berlusconi, dall'ex ministro Sacconi, perché non hanno saputo impostare adeguatamente il dialogo sociale. Ma la Finmeccanica, invece, lo scandalo Finmeccanica, gli scandali di questi giorni, siamo di fronte a una nuova Tangentopoli? Non lo so, certo siamo di fronte a una situazione gravissima, una situazione inaccettabile, una situazione da combattere con le leggi. Se il PDL non si fosse messo di traverso su una seria legge anticorruzione, adesso avremmo delle norme più severe, adeguate alla gravità dei problemi che abbiamo. È una situazione insostenibile, inaccettabile, da combattere con scelte della politica che puntino sulla professionalità e sul merito quando queste scelte competono alla politica. Credo che però tutta la classe dirigente di questo paese debba fare una riflessione molto seria, perché ci sono stati in questi giorni casi che hanno evidentemente una relazione molto stretta con la politica, ci sono stati tanti altri casi in cui questa supposta superiorità morale della società civile non si è davvero manifestata. Ultima domanda, come vede un governo insieme a Mario Monti e tra Monti e Vendola, chi preferisce? Ma è evidente che preferisco Vendola, è nella coalizione di cui faccio parte, ha costruito con noi il programma, ha fatto con noi le primarie. Quindi è fuori discussione. Vendola è parte della mia coalizione, Monti potrebbe essere un interlocutore. E un governo con Monti? Ma guardi, stanno i cittadini alle elezioni a stabilire chi governerà. Noi riteniamo che il centrosinistra, la coalizione guidata da Bersani, abbia le carte in regola per dare un governo credibile a questo paese. Poi, come abbiamo detto altre volte, riteniamo che le sfide che abbiamo di fronte impongano la collaborazione di tutte le forze europeiste e democratiche. La ringrazio, la ringraziamo. Grazie a lei. Stefano Fassina, responsabile economico del PD. Grazie.